Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Só que compreendere dovrei la mia mente, mente sei come fuoco e fiocca ne e lei. Non c'è rete, non c'è ipocrisia, una lenta letargia sonnecchiava già. Ridondante dea del gusto regna sul mio mondo da lassù. Grandi mani, riempici di virtù, apri il cielo che ci inondi. Hai grandi occhi, illuminaci la via. Je mangia. Sono le cose che vorrei, grande amore, amici miei, figli grandi che ritro. Donna, madre, tu, tu che salvi stella sei, luce dal cuore dai, piena di grazia, sogno e culto, regna sul mio mondo ondo adurto. Hai grandi mani, riempici di virtù, cielo che ci inondi. Hai grandi occhi, illuminaci la via. Je mangia. Tu grandi mani, riempi di serenità. Piove il cielo dai tuoi fianchi. Fertile donna, illuminaci la via.